Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli e benvenuti all'appuntamento di Europa 24. Oggi cominciamo parlando della cosiddetta giungla. La sapete, giungla è il nome che è stato dato a questo enorme, di fatto, campo abusivo che è cresciuto negli ultimi 2 anni all'ingresso francese del tunnel di Calais. Il Belgio oggi ha deciso di reintrodurre temporaneamente i controlli alla sua frontiera con la Francia proprio per far fronte all'eventuale flusso di migranti in fuga dalla giungla di Calais. Appunto, la misura è stata motivata con l'emergenza nel nord della Francia, dove la baraccopoli costruita dai migranti che attendono appunto di entrare in Gran Bretagna è al centro di un braccio di ferro tra associazioni di assistenza ai profughi e governo francese, determinato ormai a sgombrare almeno in parte il campo di fortuna. Abbiamo informato la Commissione europea della deroga temporanea Schengen, ha detto il ministro dell'interno belga Jean Bon, in riferimento alle regole dello spazio di libera circolazione europea. E ancora, è scontro aperto dentro il governo britannico sulla Brexit. Il ministro della giustizia Michael Gove, che sostiene la campagna per l'uscita del Regno Unito dall'UE, ha attaccato il suo premier David Cameron, affermando alla BBC che l'accordo con Bruxelles non è legalmente vincolante e che potrebbe essere messo in discussione dalla Corte europea di giustizia. Insomma, una tensione che cresce, un accordo che è stato trovato in una prima fase ma che non sembra spostare le divisioni, soprattutto all'interno del Regno Unito. Il servizio. La smania di Brexit è una minaccia, almeno secondo 200 gruppi con sede nel Regno Unito, tra cui 36 giganti del FTSE 100, ovvero le 100 società più capitalizzate della Borsa di Londra. Gli amministratori delegati di Shell, BP, Vodafone, Goldman Sachs, Marks & Spencer, tra gli altri, lo hanno scritto in una lettera al Financial Times, in cui rilevano le buone ragioni per la permanenza nella UE secondo le linee concordate al summit della settimana scorsa a Bruxelles. Crediamo, scrivono, che lasciare l'Unione Europea minacci i posti di lavoro, blocchi gli investimenti, metta a rischio l'economia. 200 non sono tutti, insorge il fronte del no alla UE, accusando il premier Cameron di avere diretto l'operazione, che tra l'altro è arrivata proprio nel giorno in cui hanno preso nuovo slancio i colloqui per una fusione tra pari delle borse di Londra e Francoforte, il che creerebbe uno dei mercati più grandi del mondo. La notizia del possibile matrimonio è piaciuta ai mercati. Il titolo del London Stock Exchange ha chiuso in rialzo del 13%, quello della borsa tedesca del 3,2%. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Staremo a vedere dunque come si svilupperà questo tema, questo dossier davvero delicatissimo in vista del referendum. Bruxelles intanto lancia una ciambella di salvataggio per i vini italiani con nome corrispondente ai vitigni autoctoni. La Commissione europea infatti va verso un dietro front sulla proposta di liberalizzazione dei nomi dei vitigni fuori dai luoghi di produzione come Lambrusco e Vermentino. A dare la notizia è Paolo De Castro, coordinatore per il gruppo Socialisti e Democratici della Commissione Agricoltura dell'Europarlamento. Il direttore generale Jost Körte, a seguito delle nostre osservazioni, ha dichiarato che proporrà al commissario per l'agricoltura, all'irlandese Phil Hogan, il ritiro dell'atto delegato sul vino. Questo è l'annuncio di De Castro dopo uno scambio di vedute con l'esecutivo UE sull'allineamento e la semplificazione appunto della legislazione secondaria del settore vino e ortofrutta. Insomma, se Corte farà quanto dichiarato all'Europarlamento, ha detto, sarà un importante successo per i nostri produttori, a conferma che il mantenimento dello status quo per la tutela dei vini identitari è l'unica via da perseguire senza modifiche che in nome di una fantomatica semplificazione rischierebbero di creare danni irreparabili. Così il nostro ex ministro dell'agricoltura, che come saprete, essendo lui spesso ospite di Europa 24, segue il dossier agricoltura a livello europeo ormai da alcuni anni. E con questa notizia è tutto per questo appuntamento. Adesso vi lascio come sempre allo sport e noi ci risentiamo domani alla stessa ora. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.